18 settembre, ore 2 di notte. Cara Margherita, sono rientrato a casa adesso dopo aver pazzamente errato per le strade. Mi pare di impazzire da un momento all'altro ed è anche questa paura che mi spinge a confidarti dopo una lunga, inenarrabile indecisione, il dolore che mi uccide. Ma voglio essere breve, Margherita. Tu sai chi io sono, figlio della colpa, abbandonato da una madre più disgraziata che colpevole. Io sono nato sotto un astro terribile e devo espiare i delitti non miei. Inconsapevole del mio triste destino, spinto dalla fatalità, io ho trascinato con me nell'abisso, dal quale io non potrò mai uscire, la creatura che ho amato sopra tutte le creature della terra. Te, Margherita, perdonami, perdonami. Questo è il mio più immenso dolore, il rimorso terribile che mi strazierà per tutto il resto della vita, seppure vivrò. Senti, mia madre è viva. Dopo un'esistenza di colpe e di dolori, ella è risorta davanti a me come un fantasma. E se è miserabile, malata, invecchiata dal dolore e dalle privazioni, il mio dovere, tu stessa lo dici a te stessa in questo momento, è di redimerla. Ho deciso di riunirmi con lei, di lavorare per sostenerla, di sacrificare la vita stessa se occorre per compiere il mio dovere. Margherita, che dirti altro? Mai come in questo momento ho sentito il bisogno di aprirti tutta l'anima mia, simile a un mare in tempesta, e mai ho sentito mancarmi le parole come mi mancano in quest'ora decisiva della mia vita. La ragione stessa mi manca. Ho ancora sulle labbra il profumo dei tuoi baci e tremo di passione e di angoscia, Margherita. Margherita, la mia vita è nelle tue mani. Abbi pietà di me. E anche di te, sii buona come io ti ho sempre sognata. Pensa che la vita è breve e che la sola realtà della vita è l'amore e che nessun uomo della terra ti amerà come ti amo e ti amerò io. Non calpestare la nostra felicità per i pregiudizi umani, i pregiudizi che gli uomini invidiosi inventarono per rendersi scambievolmente infelici. Tu sei buona, sei superiore. Dimmi almeno una parola di speranza per l'avvenire. Ma che dico? Io divento pazzo. Perdonami e ricordati che qualunque cosa accada, io sarò sempre tuo per l'eternità. Scrivimi subito, Anania. 19 settembre. Anania, la tua lettera mi sembra un orrendo sogno. Anch'io non trovo parole per esprimermi. Vieni stanotte alla solita ora e decideremo insieme il nostro destino. Sono io che devo dire, la mia vita è nelle tue mani. Vieni, ti aspetto ansiosamente. Margherita. 19 settembre. Margherita, il tuo bigliettino mi ha gelato il cuore. Ah, sento che il mio destino è già deciso, ma un filo di speranza mi guida ancora. No, non posso venire, anche volendolo non potrei venire. Non verrò se tu non mi dirai prima una parola di speranza. Allora correrò a te per inginocchiarmi ai tuoi piedi e per ringraziarti e adorarti come una santa. Ma ora no, non posso, non posso e non voglio. Quanto ti scrissi la notte scorsa è la mia irrevocabile decisione. Scrivimi, non farmi morire in questa attesa terribile. Il tuo infelicissimo Anania. 19 settembre, mezzanotte. Anania, Nino mio, ti ho aspettato fino a questo momento, palpitante di dolore e di amore, ma tu non sei venuto. Tu forse non verrai mai più. E io ti scrivo, in quest'ora soave dei nostri convegni, con la morte nel cuore e le lacrime negli occhi, non ancora stanchi di piangere. La luna smorta cala sul cielo velato, la notte è melanconica e quasi lugubre, e mi pare che tutto il creato si rattristi per la sventura che opprime il nostro amore. Anania, perché mi hai tu ingannato? Io sapevo, sì, come tu dici, quello che tu sei, e ti amai appunto perché sono superiore ai pregiudizi umani, perché volevo ricompensarti delle ingiustizie che la sorte aveva tramato a tuo danno, e soprattutto perché credevo che anche tu fossi superiore ai pregiudizi, avessi riposto in me come io avevo riposto in te tutta la tua vita. E invece mi sono ingannata, o meglio, sei stato tu a ingannarmi, tacendomi i tuoi veri sentimenti. Ho sempre creduto che tu sapessi che tua madre viveva e dove si trovava e la vita che conduceva, ma ero certa che tu, vilmente abbandonato da lei, non facessi più caso di una madre snaturata, tua sventura e disonore, e la ritenessi come morta per te e per tutti. Non solo, ma ero certa che se ella osava presentarsi a te, come purtroppo è accaduto, tu non ti saresti degnato neppure di guardarla. E invece tu ora scacci chi ti ha lungamente amato e ti amerà sempre per sacrificare la tua vita e il tuo onore a chi ti ha abbandonato, bambino inconsapevole, a chi ti avrebbe ucciso o lasciato in un bosco, in un deserto, pur di liberarsi di te. Ma è inutile che io ti scriva queste cose perché tu certamente le capisci meglio di me ed è inutile che tu continui ad illudermi e ad invocare sentimenti che io non posso avere dal momento che neppure tu li hai. Perché, vedi, io capisco benissimo che tu vuoi sacrificarti, non per affetto e neppure per generosità, perché probabilmente tu odi giustamente la donna che fu la tua rovina, ma spinto da quei pregiudizi umani inventati dagli uomini per rendersi scambievolmente infelici. Sì, tu vuoi sacrificarti per il mondo, tu vuoi rovinarti e rovinare chi ti ama solo per la vanità di sentir dire hai fatto il tuo dovere. Tu sei un fanciullo. Il tuo è un sogno pericoloso, ma anche, permettimi di dirtelo, anche ridicolo. La gente sapendolo ti loderà, sì, ma in fondo riderà della tua semplicità. Anania, torna in te, sii buono con te e con me, come tu dici, e soprattutto sii uomo. No, io non dico di abbandonare tua madre, debole e infelice, come essa ti ha abbandonato. No, noi l'aiuteremo, noi lavoreremo per lei se occorre, ma che essa stia lontana da noi, che essa non venga a mettersi fra noi, a turbare la nostra vita con la sua presenza, mai, mai. Perché dovrei ingannarti, Anania? Io non posso neppure lontanamente ammettere la possibilità di vivere assieme con lei. Ah no, sarebbe una vita orrenda, una continua tragedia. Meglio morire una buona volta che morire lentamente di rancore e di disgusto. Io non ho mai amato quella disgraziata, ora ne sento pietà, ma non posso amarla. E ti scongiuro di non insistere nel tuo pazzo progetto se non vuoi farmela nuovamente odiare mille volte più di prima. Questa è la mia ultima decisione. Sì, aiutarla, ma tenerla lontana, che io non la veda mai, che possibilmente il mondo dove vivremo noi ignori che ella esiste. Pensa che anche lei forse sarà più contenta di vivere lontana da te, la cui presenza le causerebbe un continuo rimorso. Tu dici che è invecchiata dal dolore, dalle privazioni, miserabile e malata, ma di chi la colpa se non sua? Per te ed anche per lei. È meglio che ella si trovi in quello stato, così cesserà di vagabondare e non ti disonorerà più, ma che ella, dopo averti oltraggiato quando era sana e giovane, non si faccia un'arma della miseria e della debolezza per richiedere il sacrificio della tua felicità. Ah, questo no, non devi permetterlo mai. No, non è possibile che tu compia un'aberrazione fatale, a meno che tu non mi ami più e colga l'occasione per... Ma no, no, no, no, neppure voglio dubitare di te, della tua lealtà e del tuo amore. Anania, ritorna in te, ti ripeto, non essere malvagio e crudele con me, che ti diedi tutti i miei sogni, tutta la mia giovinezza, tutto il mio avvenire, mentre vuoi essere generoso verso chi ti ha odiato e rovinato. Abbi pietà, vedi, io piango, io ti imploro, anche per te, che vorrei vedere felice come sempre sognai. Ricordati tutto il nostro amore, il nostro primo bacio, i giuramenti, i sogni, i progetti, tutto, tutto ricorda. Fa che tutto non si risolva in un pugno di cenere. Fa che io non muoia di dolore. Fa che tu stesso non abbia a pentirti del tuo pazzo procedere. Se non vuoi dar retta ai miei consigli, interroga persone serie, persone di Dio, e vedrai che tutti ti diranno qual è il tuo vero dovere, che tutti ti diranno di non essere ingrato né malvagio. Ricorda, Anania, ricorda, anche ieri notte mi dicevi che dalla vetta del Gennargentu gridasti il tuo amore, proclamandolo eterno, dunque mentivi? Anche ieri notte mentivi? E perché? Perché mi tratti così? Che ho fatto io per meritarmi tanto dolore? Possibile che tu non ricordi come ti ho sempre amato? Ricordi una sera che io stavo alla finestra e tu mi buttasti un fiore dopo averlo baciato? Io conservo quel fiore per ornarne il mio vestito da sposa. E dico conservo perché son certa che tu sarai il mio sposo diletto, che tu non vorrai far morire la tua Margherita. E il tuo sonetto lo ricordi? Che saremo tanto felici nella nostra casetta, soli, soli, col nostro amore e il nostro dovere. Sono io che aspetto da te subito una parola di speranza. Dimmi che tutto fu un sogno tormentoso, dimmi che la ragione è ritornata in te e che ti penti d'avermi fatto soffrire. Domani notte, o meglio stanotte, perché è già passata la una, ti aspetto, non mancare. Vieni, adorato, vieni, diletto mio amato sposo, vieni. Io ti aspetterò come il fiore aspetta la rugiada dopo una giornata di sole ardente. Ah, vieni, fammi rivivere, fammi dimenticare. Vieni, adorato. Le mie labbra, ora bagnate d'amaro pianto, si poseranno sulla tua bocca amata come... No, no. No, no, disse convulso Anania, torcendo la lettera senza leggerne le ultime righe. Non verrò. Sei vile, vile, vile. Morrò, ma non mi vedrai mai più. Coi fogli stretti nel pugno si gettò sul letto e nascose il viso sul guanciale, mordendolo, comprimendo i singhiozzi che gli gonfiavano la gola. Un fremito di passione lo percorreva tutto, dai piedi alla nuca. Le invocazioni di Margherita gli davano un desiderio cupo dei baci di lei e a lungo lottò acerbamente contro il folle bisogno di rileggere la lettera sino in fondo, ma a poco riprese coscienza di sé e di ciò che provava. Gli parve di aver veduto Margherita nuda e di sentire per lei un amore delirante, un disgusto così profondo che annientava lo stesso amore. Come ella era vile, vile sino alla spudoratezza, vile e coscientemente vile. La dea ammantata di maestà e di bontà aveva sciolto i suoi veli aurei ed appariva ignuda, impastata di egoismo e di crudeltà. La Minerva taciturna apriva le labbra per bestemmiare, il simbolo s'apriva, si spaccava come un frutto, roseo al di fuori, nero e velenoso all'interno. Ella. Ma il maggior tormento di Anania? Era il pensare che ella indovinava i suoi più segreti sentimenti e che aveva ragione, soprattutto ragione di rimproverargli l'inganno usatole e di pretendere da lui il compimento dei suoi doveri e di gratitudine e di amore. È finita, pensò. Doveva finire così. Si rialzò e rilesse la lettera. Ogni parola lo offendeva, lo disgustava e lo umiliava. Margherita dunque lo aveva amato per compassione, pur credendolo vile come era vile lei. Ella forse aveva sperato di farsi di lui un servo compiacente, un marito umile, o forse non aveva pensato a nulla di tutto questo, ma lo aveva amato solo per istinto, perché era stato il primo a baciarla, il solo a parlarle d'amore. Ella non ha anima, pensò il disgraziato. Quando io deliravo, quando io salivo alle stelle e mi esaltavo per sentimenti sovrumani, ella taceva perché nella sua anima era il vuoto. E io adoravo il suo silenzio che mi sembrava divino. Ella ha parlato solo quando si destarono i suoi sensi e parla ora che la minaccia e il pericolo volgare del mio abbandono non ha anima né cuore, non una parola di pietà, non il pudore di mascherare almeno il suo egoismo. E poi, com'è astuta, la sua lettera è copiata e ricopiata, sebbene riveli la grossolana ignoranza di lei, quanti che ci sono. Mi sembrano martelli pronti a fracassarmi il cranio. Le ultime righe poi sono un capolavoro e la sapeva già prima di scriverle l'effetto che dovevano produrre. Ella è più vecchia di me, ella mi conosce perfettamente, mentre io comincio appena adesso a conoscerla. Ella vuole attirarmi al convegno perché è sicura che se io ci vado mi inebrio e divento vile. Inganno, inganno, inganno, come la disprezzo ora. Non una parola buona, non uno slancio generoso, niente, niente. Ah, che rabbia! Torse di nuovo la lettera. Vi odio tutti, vi odierò sempre, voglio essere cattivo anch'io, voglio farvi soffrire, schiantare, morire. E cominciamo. Prese il sacchettino ancora avvolto nel fazzoletto di colore e poco dopo lo mandò a Zia Grazia. Tutto è finito, ripeteva ogni momento. E gli pareva di camminare nel vuoto, fra nuvole fredde come sul Gennargentu. Ma adesso invano guardava sotto, intorno a sé. Non via di scampo, tutto nebbia, vertigine, orrore. Durante la giornata pensò 100 volte al suicidio. Si informò se poteva presentarsi subito agli esami per maestro elementare o per segretario comunale. Andò nella bettola e prese fra le braccia la bella Agata, già fidanzata con Antonino, e la baciò sulle labbra. Turbini di odio e di amore per Margherita gli attraversavano l'anima. Più rileggeva la lettera, più ella gli sembrava perfida, più sentiva d'allontanarsene e più l'amava e la desiderava. Baciando Agata ricordava l'impressione violenta che il bacio della bella paesana gli aveva destato un giorno. Anche allora Margherita era tanto lontana da lui, un mondo di poesia e di mistero li divideva, e questo stesso mondo crollato li divideva ancora. Che hai? Gli chiese Agata lasciandosi baciare. Vi siete bisticciati con lei? Perché mi baci? Perché mi piaci? Perché sei puzzolente. Tu hai bevuto, disse ella ridendo. Se ti piacciono le donne così, puoi andare da Rebecca. Se però Margherita viene a saperlo. Taci! Disse egli adirandosi. Non pronunziare neppure il suo nome. E perché? Chiese Agata freddamente maligna. Non diverrà mia cognata? È forse diversa da noi? È una donna come noi? Perché noi siamo povere? Chissà poi se anch'ella sarà ricca. Se fosse stata certa di ciò, forse ti avrebbe tenuto sempre a bada finché trovava un partito migliore di te. Se non la finisci, ti batto! Disse egli furibondo. Ma l'insinuazione di Agatha crebbe i suoi sentimenti. Oramai egli riteneva Margherita capace di tutto. Verso sera si mise a letto con la febbre, deciso a non alzarsi l'indomani affinché Margherita venisse a sapere che egli era malato e ne soffrisse. Giunse ad immaginarsi una segreta visita di lei e, pensando alla scena che ne sarebbe seguita, tremava di dolcezza. Ma ad un tratto questo sogno gli apparve qual era, puerilmente sentimentale, e ne provò vergogna. Si alzò ed uscì. Alla solita ora si trovò davanti al portone di Margherita e la stessa aprì. Si abbracciarono e si misero entrambi a piangere, ma appena Margherita cominciò a parlare, egli sentì un invincibile disgusto per lei, poi un senso di gelo. No, egli non l'amava più, non la desiderava più. Si alzò e andò via senza pronunziar parola. Giunto in fondo alla strada, tornò indietro, s'appoggiò al portone e chiamò Margherita, ma il portone rimase chiuso. 9. 20 settembre. Anania, il tuo procedere di ieri notte mi ha finalmente rivelato il tuo carattere e i tuoi sentimenti. Crederei inutile dirti che tutto è finito e inesorabilmente fra noi, se tu non prendessi il mio silenzio per un segno di attesa umiliante. Addio dunque e per sempre, Margherita. PS. Desidero riavere le mie lettere. Io ti restituirò le tue.